in primo piano. Buongiorno, buon lunedì da Giulia Crivelli. È strano trovarci di lunedì in questo agosto, sarà così, ci sentiremo, ci ritroveremo anche durante la settimana e per la rassegna stampa dei giornali italiani. E cominciamo dal Sole 24 Ore. Il Sole 24 Ore del lunedì, come sapete, anche perché ascoltate sempre Mauro Meazza, che del Sole 24 Ore del lunedì è responsabile, che ve lo anticipa spesso, non solo quello del lunedì ma in particolare quello del lunedì, è proprio un numero di approfondimento. E questa settimana il titolo della copertina è dedicato alle casse professionali, che è uno dei tanti risvolti del problema demografico che abbiamo in Italia. Infatti il titolo è "Le casse sotto stress, i pensionati crescono più degli iscritti". Dal 2010 il numero degli assegni di pensione è salito del 22% contro il 15% dei nuovi ingressi, quindi una bella differenza. Sull'approfondimento della ricerca della Fondazione Leone Moressa, che avete anche appena sentito nella controcopertina del GR, trovate tutto il servizio di Rossella Cadeo a pagina 14, richiamato in copertina. Ricordo anche da oggi, col Sole 24 Ore, lo spiega naturalmente anche la prima pagina, inizia questa iniziativa simile a quella che c'era stata anche nell'agosto scorso, si chiama Focus Estate, sono tutte le novità per i professionisti. Sapete che ci sono stati moltissimi cambiamenti per quanto riguarda appunto il lavoro, le norme, le leggi, la grande burocrazia italiana, e oggi si comincia con tutte le novità per casa e condominio, le regole e gli sconti per chi acquista. Domani invece, ma lo vedremo domani, tutte le novità del codice della strada. E poi, come ogni lunedì, allegato al Sole 24 Ore c'è l'Esperto Risponde, che è quel manualetto, diciamo formato tabloid, che ogni settimana si risponde alle domande ricevute dai lettori e magari ne sceglie due particolari che possono interessare il numero più alto di persone, le mette in copertina. Questa settimana il fisco, come rimediare agli errori nel 730 precompilato, che sapete è una delle grandi novità fiscali, quest'anno il numero di persone che hanno utilizzato questo strumento è molto cresciuto. E poi una per quanto riguarda la famiglia, dai telefonini alle sveglie, nuove regole per smaltire appunto tutti quelle montagne di rifiuti elettronici che stiamo accumulando, anche perché abbiamo questa abitudine probabilmente malsana di sostituire molto velocemente tutte le nostre apparecchiature elettroniche e gli elettrodomestici, e quelli che vengono buttati devono essere appunto smaltiti. Ci sono delle leggi che spiegano come farlo e l'Esperto Risponde ve le rielenca tutte. Il Corriere della Sera, come la maggior parte dei quotidiani, ha in copertina una delle tante foto scattate ieri, l'avete sentito nei GR, nei telegiornali, lo avete forse anche letto su internet, la cronaca di questa giornata straordinaria in cui nelle chiese italiane e francesi si sono recati anche musulmani. Il numero esatto naturalmente è molto difficile da calcolare, comunque intorno a 20.000 persone. E quindi per l'articolo, per esempio, di Fabrizio Caccia, imam e dialogo nelle chiese, e i terroristi sono stati definiti da più imam dei falliti. In realtà però il titolo principale del Corriere della Sera, sotto alla foto che ritrae dei musulmani in preghiera in una chiesa, è dedicato alla vicenda che vede Hillary Clinton accusare Mosca di averla spiata, proprio direttamente, con una responsabilità diretta del governo di Mosca, non di così hacker indipendenti. Sono appunto nel discorso che ha fatto ieri a Fox News, che tra l'altro è il canale All News più seguito dai repubblicani, in generale dagli elettori repubblicani, ha detto: "Sappiamo che gli attacchi informatici sono arrivati dai servizi segreti russi". Ci lasciamo però un attimo per gli aggiornamenti sul meteo. In primo piano. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, un po' addormentata perché vi ho annunciato il metro mentre era il traffico, perdono. Ma torniamo alle prime pagine dei quotidiani. La Repubblica inverte un pochino l'ordine, diciamo la gerarchia delle notizie rispetto a Repubblica, nel senso che la foto notizia anche in questo caso è una foto scattata in una chiesa, il Duomo di Firenze, dove si vedono chiaramente dei fedeli musulmani accanto a fedeli cattolici e in mezzo il prete che ha celebrato la messa. E il titolo è "L'Islam non è terrorista", perché è una delle tante citazioni di tanti musulmani, di tanti imam che hanno preso la parola ieri. Dicevo gerarchia invertita perché poi subito sotto c'è comunque la notizia di Hillary che accusa Mosca, guida i cyberattacchi e fa il gioco di Trump. Qui l'analisi che va anche oltre la cronaca è di Vittorio Zucconi, storico corrispondente della Repubblica dagli Stati Uniti, il titolo del suo articolo che poi trovate a pagina 9, è leggere il presidente USA, il sogno delle spie da tastiera. La Stampa ha più o meno la stessa gerarchia, nel senso anche qui una foto, in questo caso è un imam che abbraccia un parroco in una chiesa di Roma, il titolo l'abbraccio contro il terrore e la notizia di Hillary è di spalla, quindi Hillary a Putin, i tuoi uomini hanno rubato le mie email. L'altra invece notizia che la Stampa mette in prima pagina con un certo risalto è un'inchiesta che poi trovate le pagine 10 e 11 di Alberto Mingardi, che cerca di capire, al di là delle polemiche, in particolare quella sull'AMA, sulla società che gestisce i rifiuti a Roma, che cosa stanno facendo in queste prime settimane le due sindache di Roma e Torino, cioè Virginia Raggi e l'Appendino a Torino. Le sindache di Roma e Torino, alle sfide delle città, con un obiettivo: tagliare i costi. Il Messaggero invece proprio ha la stessa foto della Stampa, cioè un imam che abbraccia il parroco in questa chiesa di Roma, che il Messaggero specifica è la chiesa Santa Maria in Trastevere, e però il titolo principale è su Hillary. Hillary accusa, Mosca ci spia. Il commento a quello che è successo ieri è di Franco Cardini, storico e molto attento, in particolare grandissimo esperto di tutto il mondo musulmano e la storia dell'Islam. Dialogo tra le religioni, bene l'abbraccio, ma il governo ora favorisca tavoli di intesa. In prima pagina ovviamente del Messaggero c'è la notizia invece di Roma, che riguarda in particolare, come dicevamo, il caso dell'azienda municipalizzata che gestisce i rifiuti, il caso Roma in Parlamento. Sì, c'è questo scontro in atto tra le consulenze che l'assessore all'ambiente della Giunta Raggi, Paola Muraro, per 12 anni avrebbe fatto all'azienda municipalizzata, incassando in questo modo più di 1 milione di euro, e questa azienda che adesso è sotto accusa con un direttore generale, un presidente dimissionario, di cui poi leggeremo un'intervista, appunto questa azienda che viene accusata di essere comunque, di avere grossissime responsabilità nella catena della gestione dei rifiuti romani, della raccolta, della gestione e dello smaltimento dei rifiuti, appunto in realtà ha ricevuto consulenze da quella che adesso è l'assessore Muraro, che tra l'altro è la prima critica insieme a Virginia Raggi della stessa AMA. Libero ha un titolo ancora diverso e anche una fotonotizia diversa, perché prende spunto Ugo Bertone da un libro che uscirà tra poco di Joseph Stiglitz, che è un economista americano specializzato in particolare in microeconomia ed è da anni uno dei grandi critici dell'euro. Ha anche ricevuto il premio Nobel per l'economia, e da questo libro Libero usa una delle tesi di questo libro per il suo titolo di copertina: l'euro ci mangia gli stipendi, parola di premio Nobel. L'economista americano: la moneta unica è servita a comprimere i salari attraverso l'austerity per arricchire gli imprenditori. Ci sarà un altro referendum dopo quello britannico, fra 5 anni salta tutto. Questa è la tremenda previsione di Stiglitz. Sulla questione dei musulmani che ieri sono andati nelle chiese cattoliche, hanno partecipato alle messe in Italia e in Francia, Libero è molto critico e titola: chi li ha visti? 4 gatti a messa, il 99% degli islamici è rimasto in moschea. Ma la fotonotizia non è su questo, l'avete capito, è invece su una notizia che abbiamo visto anche ieri, non mi ricordo esattamente su quale quotidiano, ma c'era forse su più di uno. È una foto di Gino Paoli, perché come ricorderete era stato indagato per evasione fiscale, l'evasione è stata accertata, però Gino Paoli ha patteggiato, l'evasione era legata al fatto che aveva portato dei soldi in Svizzera, ha patteggiato, e sapete che quando si patteggia vuol dire che si ammette la colpa, però si patteggia per avere un processo più breve e in generale una pena più breve, ma soprattutto il reato è prescritto. E quindi Libero dice: canta per il PD, porta i soldi in Svizzera, graziato Paoli. Poi vi segnalo, perché sicuramente, insomma, credo che qualche reazione l'avrà questo è dal Giornale, vi segnalo che mette in copertina l'inizio di un articolo pubblicato il 14 giugno del 1913 da Benito Mussolini, che come ha raccontato ieri sul giornale lo storico Francesco Perfetti, cito testualmente quello che era scritto ieri, è stato uno dei più grandi giornalisti del suo tempo e il primo a usare la stampa come arma di propaganda. E già qui secondo me c'è una prima contraddizione, perché per me un grande giornalista non è un giornalista che usa la stampa come propaganda, ma tant'è, questo era quello che scriveva ieri lo storico sul giornale. E oggi per far capire che cosa intendesse per grandezza di Benito Mussolini giornalista, viene pubblicato questo articolo, che appunto era stato pubblicato dall'Avanti il 14 giugno del 1913 e che si intitola «Tra i fucili dei borghesi e i sassi dei lavoratori». Ma il titolo principale, questo è in copertina sul giornale, poi lo trovate una pagina intera a pagina 14 del giornale, però il titolo principale anche in questo caso è dedicato alla giornata di ieri, a messa l'1,5 degli islamici, quindi un pochino più generoso di Libero, che invece diceva il 99 sono stati a casa, quindi solo l'uno sarebbero andati a messa, già pretendono le offerte, in chiesa 23.000 fedeli e le associazioni dicono dateci l'8 per 1.000. L'editoriale del direttore di Alessandro Sallusti, anche qui un sobrissimo titolo, Renzi come Erdogan. Adesso, se il paragone vi sembra calzante, insomma sono situazioni un po' diverse, per quanto si possa essere critici di Renzi. Lo spunto naturalmente è la vicenda Rai, tutti sembrano aspettare come una notizia che cambia le sorti del mondo le nomine dei direttori dei tre TG che dovrebbero arrivare mercoledì dopo il CDA della Rai, e da questo, perché come saprete, o forse no, perché non è un argomento che bisogna seguire con la massima attenzione o a cui dedicare troppe energie. Comunque, come forse avrete sentito, il nodo da sciogliere, lo abbiamo letto anche ieri in tante analisi, è quello della direzione del TG3, perché si dice che Bianca Berlinguer, dopo averlo diretto per 7 anni, potrebbe essere sostituita, e chi dice che se verrà fatto perché non è stata abbastanza renziana, al contrario dei suoi colleghi del TG1 e del TG2. Il secolo XIX, anche in questo caso una foto di un incontro tra musulmani e cattolici in una chiesa di Genova, la cattedrale di San Lorenzo, perché il secolo XIX è il quotidiano di Genova, ma ve lo segnalo anche perché poi questo articolo lo trovate anche sulla Stampa, perché sapete che la Stampa e il secolo sono sotto lo stesso cappello editoriale, e quindi a volte si scambiano degli articoli, perché giustamente non è detto che chi compra la Stampa compri il secolo o viceversa. Quindi questo articolo, se non siete a Genova o non avete facilità di comprare il secolo, lo trovate anche sulla Stampa, ed è un reportage dalla Aiguella che spiega questa curiosa notizia. Alla Aiguella comitive di turisti arrivano di notte per prendere posto sulle spiagge libere. Verso le 4 le spiagge cominciano a riempirsi. All'alba nuoterò i forzati della spiaggia libera. Quasi tutti sono venezuelani, spiega Marco Menduini, che è andato appunto a raccontare questa storia sulla spiaggia della Aiguella, che è in realtà tra l'Aiguella e Alassio, e sono quasi tutti, partono da Milano, e in questo modo, arrivando così presto, possono mettere il loro asciugamano, il loro ombrellone, insomma trovare un posto al sole, un piccolo posto al sole. Il Giorno, anche in questo caso molto critico sulla giornata di ieri, bluff degli imam in chiesa, domenica di abbracci e foto, c'era però solo l'1,5% dei musulmani. La fotonotizia però è dedicata a Hillary, con sullo sfondo una bandiera americana, Putin mi spia. Il Fatto Quotidiano ha una specie di fact checking fatto da Stefano Feltri e da Marco Travaglio, direttore del Fatto Quotidiano, sull'intervista di cui abbiamo letto degli stralci ieri, se ne è parlato molto perché poi è stata ripresa, ed è l'intervista che Matteo Renzi ha concesso a Repubblica, che era il titolo principale della Repubblica di ieri e poi occupava le pagine 2 e 3 del giornale. Il titolo è Renzi, il signor 15 palle. E qui ci sono appunto questa sorta di fact checking secondo il Fatto Quotidiano, perché vi leggerò due di questi punti e ognuno può giudicare se è veramente un fact checking o è di nuovo semplicemente un'interpretazione. Comunque il titolo è Bugie da Premier, tutte le menzogne su MPS, Etruria, Jobs Act, referendum, Rai e guerra all'ISIS. E vi leggo appunto questa storia della RAI. Il premier ha detto nell'intervista: io non ho messo il naso in nessuna nomina RAI e non intendo farlo adesso. Abbiamo scelto come governo un manager qualificato come Campo Dall'Orto, adesso tocca a lui e alla sua squadra. Secondo Il Fatto non è vero, e quindi Il Fatto scrive: ma Renzi ha messo il naso e come? In base alla sua riforma della RAI che perpetua la Gasparri, il governo proprietario dell'azienda, tant'è che lui stesso deve ammettere di aver nominato il DG Campo Dell'Orto, suo vecchio amico e sodale di Leopolda, poi promosso amministratore delegato con pieni poteri, il quale ha nominato altri amici di Renzi e ha rimosso o sta per rimuovere i giornalisti attaccati da Renzi, eccoli qua, Massimo Giannini, Ballarò, a Bianca Berlinguer. Nessun accenno naturalmente al fatto che per esempio Ballarò non facesse molti ascolti, come ho già avuto altre occasioni di dire, più che presumere che ci sia una presa di posizione di Renzi perché questi due giornalisti o altri non sono stati abbastanza benevoli con il governo, forse potremmo vedere se veramente queste trasmissioni hanno avuto successo, ma di questo non si parla assolutamente. Comunque, questo è, come ieri l'intervista era alla pagina 2-3 di Repubblica, questo è a pagina 2-3 del Fatto Quotidiano di oggi. La Gazzetta dello Sport, ancora grandi approfondimenti sul calciomercato, si rinforzi chi può con tutti i casi che potete immaginare, e poi tanti approfondimenti perché mancano 4 giorni all'inizio delle Olimpiadi, quindi ve li do io i giochi. A proposito di Olimpiadi, Il Foglio del lunedì, che come sapete è quell'edizione del Foglio che raccoglie quello che secondo Il Foglio, secondo il suo direttore Claudio Cerasa e il fondatore Giuliano Ferrara, è un po' il meglio di quello che è uscito sui giornali o sui settimanali nella settimana precedente. L'apertura è sempre dedicata a un collage di citazioni su un unico argomento, e questa settimana non poteva che essere le Olimpiadi. Il titolo: elogio delle Olimpiadi nonostante tutto. Ma vi segnalo anche, ci sono sempre sulla prima pagina del Foglio del lunedì due editoriali, uno del direttore che si firma con una ciliegia e uno del fondatore che si firma col famoso elefantino. E in questo caso Giuliano Ferrara, che tra l'altro è sposato con un'italo-americana, è molto attento a quello che succede nella politica americana, e parla appunto dello scontro Trump-Hillary e scrive: c'è stata un'epoca in cui la realtà era un oggetto visibile e un metro di misura, bisognava conoscerla, definirla, interpretarla, danzarle attorno, e certo anche allora erano vagonate di retorica, lo spazio era aperto ai demagoghi, la menzogna sapeva prendersi il suo posto, non è che fosse l'Eldorado. Ma alla fine i partiti, le tradizioni politiche, le istituzioni politiche avevano un centro di riferimento. L'impressione è che il tempo della comunicazione della grande fuffa millennial abbia portato, stia portando a una specie di Brexit universale, con i sistemi politici che escono da se stessi, i linguaggi della società che diventano incomunicabili e la pancia del paese cosiddetta che impone a tutti i suoi borborigmi e le sue indigestioni. È uno strano segmento della storia, quello in cui un Trump e un Salvini possono scambiarsi di immagine e di ruolo, mentre Marine Le Pen tace e la Francia si affida alle frequentazioni musulmane della messa. Ci fermiamo solo un attimo e ci ritroviamo subito dopo. Stavo leggendo un messaggio di un ascoltatore che si riferiva a quello che ho detto sull'articolo di Ugo Bertone, che prende spunto dal libro di Stiglitz. Quando nel sommario c'è scritto "Fra 5 anni salta tutto", non parla solo dell'euro, perché ho usato la parola tremendo. In realtà Stiglitz prevede la fine proprio dell'Unione Europea, e questo secondo me è tremendo, perché l'Unione Europea, con tutti i suoi difetti e con tutte le riforme di cui ha bisogno come struttura, anche politica e burocratica, è sicuramente un grande successo, e non dovremmo mai dimenticare che da quando è nata, insomma, in Europa ci sono stati molto meno conflitti. Certo, c'è stato tutto il conflitto nei Balcani, quindi non è neanche giusto dire che in Europa dopo la Seconda Guerra Mondiale non ci sono più stati conflitti, però sicuramente, almeno secondo me, e per questo la parola tremendo, l'Unione Europea è un traguardo, come lo sono sempre, secondo me, le unioni tra paesi, gli accordi tra paesi, i ponti tra paesi, mentre nell'altro caso ci sono le divisioni. Ma veniamo alla pagina interna dei quotidiani, e vi dicevo, il titolo del Sole 24 Ore, trovate tutto a pagina 2-3 con questi schemi che fanno capire come, ed è appunto un risvolto della crisi demografica che abbiamo in Italia, sappiamo che siamo uno dei paesi dove ci sono meno nascite insieme al Giappone, anche in Germania non sono messi bene, però lì ci sono più immigrati. Anche da noi gli immigrati fanno più figli che rispetto a chi non è immigrato. E però non è ancora sufficiente per migliorare un po' questo saldo demografico. Alle pagine 2 e 3 trovate questa fotografia con tutte queste casse previdenziali che fanno vedere come la media rifletta poi anche le singole situazioni, cioè le pensioni erogate sono più sono cresciute di più dei nuovi professionisti che si sono iscritti alle casse. Come avevamo letto sul titolo, il numero di assegni erogati è cresciuto del 22% a fronte di un incremento complessivo di nuovi ingressi pari solo al 15%. Poi un'altra pagina intera di approfondimento con un commento di Paolo Bricco, che del Sole 24 Ore è sicuramente il più esperto in politiche industriali, e riguarda l'export che negli anni della crisi ha salvato l'Italia. E qui in questa fotografia e nell'articolo di Michaela Cappellini si fanno le differenze tra le varie regioni. Veneto e Lazio sono le più dinamiche. La Lombardia resta in testa per volumi, quindi è quella che è cresciuta, non è cresciuta quanto Veneto e Lazio, però è quella con appunto il volume maggiore, e bene anche il Piemonte, mentre la Sicilia è la maglia nera. Pensate che l'export della Sicilia è addirittura sceso del 12,4%. Le esportazioni del nord-est sono andate meglio di quelle del nord-ovest, e mentre la farmaceutica spinge il centro Italia e l'automotive traina il sud grazie alla fabbrica di Melfi. Un interessante approfondimento sulla prima pagina di Impresa e Territori sui manager che vanno all'estero. Ovviamente ci sono dei costi maggiori per le aziende perché vanno previsti tutta una serie di misure, e Enrico Netti ci racconta, partendo da un rapporto di Mercer, manager all'estero, il paese che costa di più appunto alle aziende che decidono di mandare lì i loro manager è l'India. Mumbai supera Shanghai e Pechino. Sui pacchetti pesano la variabile sicurezza e l'inflazione. Trovate, come vi dicevo, l'avete sentito nella controcopertina, l'approfondimento di Rossella Cadeo sui dati degli stranieri in Italia e il loro contributo al welfare. Trovate l'approfondimento a pagina 14. Passiamo al Corriere della Sera, e qui vi segnalo, sono tutti e due, partono dalla prima pagina, ma poi li trovate a pagina 26, due commenti, uno di Gian Antonio Stella, che sono, come spesso capita con gli articoli di Stella, un po' approfondimenti da mani sul volante. Qui ci racconta questa vicenda allucinante dell'ASL di Agrigento. Ve ne leggo un pezzo per farvi capire di cosa si tratta. Falsi e bugie, il castigo inesistente, questo è il titolo. Così fan tutti. E questa è la motivazione della sentenza d'appello che condanna a pene ridicole gli imbroglioni che con un autocertificazione falsa, dove giuravano di aver fatto i magistrati o di avere una laurea, erano riusciti a farsi inserire nel CDA della ASI di Agrigento, ottenendo così preziosi trasferimenti vicino a casa e altri benefici ai danni dei colleghi. 2 settimane di cella o 3.750 euro di multa, il minimo del minimo del minimo. La motivazione, racconta Stella, tenuto conto del contesto in cui tale falsa dichiarazione venne sottoscritta, della pregressa situazione di acquiescenza da parte della pubblica amministrazione a una situazione caratterizzata da mancato rispetto delle fonti normative, chiuse virgolette, insomma, chi aveva mai rispettato la legge? E questo appunto, non si rispetta la legge, si mente, e poi tutto dimenticato con 3.750 euro. Un altro articolo interessante, perché abbiamo parlato tanto di NPL, non performing loans, i crediti deteriorati, quelli difficili da recuperare per le banche, che quindi sono una zavorra nei conti ma anche nel futuro delle banche, tant'è che adesso sono avviate, soprattutto per il Monte dei Paschi di Siena, queste operazioni di cartolarizzazione, che vuol dire vendere i crediti deteriorati. E su questo tema scrive Sabino Cassese un approfondimento, anche in questo caso per cercare di capire fino in fondo questa vicenda. Dice, il titolo del pezzo è Regole rigide, giustizia lenta, la vera zavorra delle banche. Anche in questo caso ve ne leggo una parte, poi l'ho trovata a pagina 26. In Italia l'incidenza dei crediti deteriorati è 4 volte superiore alla media europea, mentre gli altri fattori di rischio del sistema bancario sono decisamente inferiori, è una recente indagine di Mediobanca. Si può dire che le attuali difficoltà dipendano soltanto da qualche banchiere poco avveduto, avventuroso, preso da manie di grandezza, o soltanto dalla difficile situazione economica? Non si deve piuttosto riconoscere che il fattore di rischio costituito dai crediti scaduti, ristrutturati, incagliati o in sofferenza è così alto perché il suo controllo non dipende soltanto da chi gestisce il credito, ma anche da un sistema giuridico obsoleto? E naturalmente il tema è di quanto sia difficile in Italia, ma credo che tanti di noi lo sappiano, anche solo a volte quando non so, gli inquilini sono morosi, per parlare di cittadini e non di banche, ottenere appunto un iter di giustizia veloce per avere se non altro una risposta. Sì, hai diritto, possiamo obbligare il debitore a pagare, no, non possiamo. Sul Corriere della Sera anche un modo molto particolare di continuare a parlare della Turchia. Abbiamo visto Sallusti sul Giornale che paragona Renzi a Erdogan. Questo è un altro modo ancora di parlare di Erdogan, è una specie di faccia a faccia tra Erdogan e il suo arcinemico Gulen, che in realtà una volta era alleato nel suo stesso partito e poi si è autoesiliato negli Stati Uniti, anche perché probabilmente temeva per la sua vita. Erdogan lo ha accusato di essere dietro al fallito golpe di 10 giorni fa. E in questa pagina del Corriere, la pagina 11, Cinzia Leone, che è un'illustratrice, un'autrice di storie illustrate, anche di fumetti e di vignette, appunto in 8 piccoli confronti con fumetti tra Erdogan e Gülen, fotografa un po' la situazione secondo lei. E la sintesi è: Turchia contro Turchia. Erdogan usa il fallimento di un golpe avventurista per imporre il suo Islam di Stato. Le sue purghe islamiche, preparate da mesi contro Gülen e decine di migliaia di suoi seguaci, spianano la strada al presidente califfo. Direte che strano modo di raccontare le cose, però anche ieri ero in libreria, ho visto che lo scaffale delle graphic novel, delle storie illustrate, si è arricchito non solo di storie fantastiche, ma proprio anche di fatti di cronaca. Per esempio ce n'è una che mi ha colpito sulla storia di Ambrosoli, l'avvocato assassinato perché stava indagando sullo scandalo Sindona. Una storia tremenda a cui sono stati dedicati film, libri, comunque per dire, insomma, c'è quest'idea che forse si possano raccontare le storie anche così, con appunto le storie illustrate. Ma torniamo a Roma, alla vicenda dei rifiuti. Qui c'è un'intervista al presidente appunto dell'AMA, dimissionario Daniele Fortini. Il titolo dell'intervista di Ernesto Menicucci è: l'emergenza tornerà, Muraro all'AMA pesava, perché la questione appunto, la Muraro si è difesa dicendo che sì, è vero, è stata consulente per 12 anni, sì, è vero, ha avuto più di 1 milione di euro di compensi in tutto, però tutto sommato. E invece Fortini dice no. Tra l'altro lo scontro tra Fortini, la stessa Muraro e il sindaco Virginia Raggi è apertissimo, non ha ancora una soluzione. La Repubblica riprende probabilmente un pezzo dell'intervista di ieri di Renzi che non era riuscito a pubblicare, dove Renzi ha parlato del caso Regeni. Il ragazzo morto dopo essere stato torturato al Cairo, e sapete che non si riesce a capire che cosa veramente sia successo. Aveva solo 27 anni, ormai sono già passati 6 mesi da quando è stato ucciso. Sul pirellone, con una combinazione di finestre illuminate, è apparsa la scritta "Verità per Regeni". Questa verità è molto difficile da stabilire, perché Cambridge non collabora. Cambridge è l'università per la quale dove il ricercatore lavorava, e non collabora soprattutto l'Egitto. E allora Renzi, appunto Repubblica riprende questo stralcio della conversazione di ieri, che però appunto ieri non c'era ma oggi è stata ripresa: ho chiesto anche al premier britannico Theresa May di intervenire, inspiegabile il comportamento dei professori. Quindi in questo caso appunto un appello a una maggior collaborazione con Cambridge. A proposito di terrorismo, sulla Stampa trovate un'intervista al garante per la privacy Antonello Soro, perché, come abbiamo visto anche nei giorni scorsi e come era successo negli Stati Uniti dopo l'11 settembre, si potrebbe preparare delle nuove leggi per permettere ai servizi segreti, ai governi, magari nemmeno ai servizi segreti, anche solo ai ministeri, per esempio al Ministero dell'Interno, di accedere ai nostri dati, a quello che facciamo soprattutto online, per capire se siamo persone che mettono a rischio la sicurezza nazionale. Secondo il Garante, i controlli di massa sono inefficaci, necessario selezionare i bersagli. E Olivier Roy, che è un orientalista all'Istituto di Fiesole e anche un filosofo francese, dice che per esempio le regole per quanto riguarda la Francia sono sufficienti, vanno applicate meglio. Quindi contrari entrambi sostanzialmente a nuove leggi per, tra virgolette, violare la privacy dei cittadini quando la ragione sarebbe la ragion di Stato, la sicurezza nazionale. Vi segnalo, se volete approfondire questo scontro e quello che c'è dietro tra Hillary Clinton e lo zar, tra l'altro anche qui un ascoltatore dice giustamente: chissà perché ci si sente in diritto di chiamare Hillary Clinton Hillary, mentre Donald Trump raramentissimamente nei titoli appare come Donald piuttosto come Trump. Effettivamente è una differenza, si può riflettere sul perché questo viene fatto. Naturalmente uno è donna, l'altro uomo, forse la ragione è quella. In ogni caso, proprio per quanto riguarda il rapporto tra Hillary Clinton e Vladimir Putin, c'è una foto che li vede ritratti a Vladivostok nel 2012, quando Hillary Clinton era segretario di Stato, cioè ministro degli esteri americano, e la storia che ci racconta Anna Zafesova, insulti e parodie, quell'odio antico tra Hillary e lo zar. Lui non la considera, perché una delle famose frasi che ha detto Putin è: con le donne non si discute. Lei lo ha paragonato a Hitler, niente un po' di meno, e dice che fa la parodia del macho. Quindi insomma no, non corre buon sangue tra i due. Una buona notizia, visto che abbiamo parlato di burocrazia, di quanto comunque in Italia resti un problema, pagina 13 della Stampa: la fine delle scartoffie. Dal 12 agosto stop alle pratiche di carta, svolta nella pubblica amministrazione, tutto sarà sul cloud, cioè sapete quelle banche dati un po' invisibili, fantasma, ma che in realtà ci sono, speriamo che ci siano, che abbiano anche un futuro, che si trovano su internet. Risparmio di 3,2 miliardi di euro all'anno, quasi 2 miliardi di fogli. Sul Messaggero, che ha seguito con molta attenzione da sempre la riforma della pubblica amministrazione, concorsi della pubblica amministrazione, ecco la riforma taglia tempi. L'approfondimento lo trovate a pagina 9. In arrivo una rivoluzione per il reclutamento degli statali, massimo 6 mesi per chiudere le gare e conoscere i vincitori, regole uguali per tutti e 2 sole procedure per assegnare i posti, una a carattere nazionale e una gestita a livello locale. E capite che sembra il massimo del buon senso, quindi uno ci si chiede: ma prima che cosa succedeva? Regole diverse per tutti? Più di 6 mesi per conoscere i vincitori? È veramente un'assurdità. Ma questa riforma della pubblica amministrazione, per quanto criticata e probabilmente imperfetta come ogni norma, è sicuramente una delle grandi novità introdotte dal governo Renzi. Ora però ci fermiamo per il traffico. In primo piano. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli per l'ultima parte della rassegna stampa. Molti ascoltatori mi considerano molto fiorenziana, io non mi considero così, però se do questa impressione mi dispiace, quindi starò più attenta. La mia ambizione sarebbe in realtà quella di essere abbastanza, anzi senza abbastanza, la mia ambizione sarebbe quella di essere imparziale, ma insomma forse non sempre ci riesco, ma ripeto, non mi considero filorenziana né filo nessuno, comunque non lo direi qui a questi microfoni. In ogni caso, dal Messaggero un approfondimento che trovate quasi solo sul Messaggero, ed è sull'ultima mossa. Abbiamo visto sul Corriere della Sera si parla di Turchia, in questo caso però è l'ultimatum che Ankara ha dato ieri all'Unione Europea. Il ministro degli esteri, infatti, del governo Erdogan ha detto: liberalizzate gli ingressi dei turchi in Europa oppure ritiriamo l'accordo sui rifugiati. E Bruxelles ha replicato: siete comunque in ritardo, non avete rispettato i criteri, un accordo che tra l'altro vale 2 miliardi di fondi concessi alla Turchia alla firma dell'accordo. E tra l'altro si accenna anche al fatto che c'è stata anche parecchia tensione ieri in Germania a Colonia, perché c'è stata una manifestazione con 30.000 persone in piazza per Erdogan. La Germania è sicuramente il paese europeo con la più lunga storia di immigrazione dalla Turchia. dal giorno, dalle pagine interne, vi segnalo questo approfondimento da Sulzano in provincia di Brescia, che ci racconta come sul lago di Iseo, dopo la famosa installazione dell'artista franco-bulgaro Christo, che ricorderete aveva costruito quella passerella temporanea, Floating Piers, che ha portato 1.200.000 persone appunto a poter camminare, avere la sensazione di camminare sulle acque del lago di Iseo. È durata solo 18 giorni, però ha portato con sé un'estate boom per il turismo, campeggi e ristoranti pieni. Dopo anni si rivedono anche gli italiani. E a proposito di assolutamente non filorenziani, anzi di quella minoranza Dem che è la parte più critica del centro-sinistra verso Renzi, c'è un'intervista sul Fatto Quotidiano a Gianni Cuperlo, leader della minoranza Dem. Il PD non c'è più, è quasi estinto, è un comitato elettorale per potenti. Quindi, come forse avrete seguito, insomma, alterna sempre un po' la critica feroce, magari invece alla critica un po' più costruttiva. Gianni Cuperlo in questo caso è sicuramente, appartiene al primo tipo di critica, anche se poi su certe cose fa anche autocritica. Sulla famosa questione del doppio incarico, cioè il fatto che Renzi sia sia segretario del PD che premier, dice: se Renzi non fosse stato anche segretario avremmo potuto incalzare il governo per superare i veti di NCD. E un altro passaggio: idee superate, Matteo riprende ricette di 15 anni fa, è ancora fermo a Tony Blair e Bill Clinton, persino Hillary Clinton è più a sinistra. Ma vediamo altri articoli dall'interno dei giornali, magari un po' meno di cronaca, o meglio, alcuni più legati alla cronaca, altri meno. Sul Sole 24 Ore trovate, come ieri c'era già un focus di Maria Luisa Colledani sulle Olimpiadi, su come comunque saranno dei giochi record, con un record di atleti partecipanti. Nel pezzo di oggi, a pagina 15 del Sole, sempre Maria Luisa ci racconta: spedizione azzurra Forti Tinte Rosa. L'Italia porta oltre 300 atleti, più che a Londra 2012, e mai così tante le donne. L'età media è di 27 anni. Dal Corriere della Sera alle pagine milanesi, un'intervista alla fondatrice del FAI, Giulia Maria Crespi Mozzoni, che torna sul tema della collaborazione con le autorità, con i governi locali e nazionali per la tutela del patrimonio italiano, artistico e culturale italiano e paesaggistico, che molti continuano a definire il vero petrolio dell'Italia, poi però nei fatti non sempre viene tutelato. E per esempio, per quanto riguarda la Lombardia, dice: stanziato solo un ottavo di quanto la regione spende per tutte le sue riserve verdi per il Parco del Ticino, che potrebbe anche essere appunto una grande risorsa turistica. Dicevamo, non solo cronaca. Giorgio Montefoschi, dalle pagine di cultura del Corriere della Sera, parla di questa nuova traduzione di Anna Karenina, uno dei capolavori di Tolstoi, e in particolare io l'ho trovato molto divertente. Forse in estate si ha tempo di rileggere o leggere per la prima volta classici come questo, e lui si concentra in particolare sul fatto che sì, la narrazione si domina, le figure femminili dominano la scena, del resto appunto il titolo del libro è il nome della protagonista, Anna Karenina, ma i quattro personaggi maschili sono indimenticabili, sono Oblonsky, il conte Vronsky, Lievin e Karenin. È molto bella questa recensione, una recensione di quelle che io definisco vecchio stile, la trovate a pagina 28 e 29 del Corriere. Dalle pagine interne invece della Repubblica, un lunghissimo articolo dell'ex direttore Ezio Mauro, che ricorda come 80 anni fa in Spagna cominciava la dittatura di Francisco Franco, e anche in questo caso lo spunto è un libro, perché è un libro, un romanzo biografia che torna in libreria per Sellerio, di Manuel Vázquez Montalbán, lo scrittore scomparso qualche anno fa, e anche in questo caso una recensione vecchio stile, che però serve anche per appunto ricordarci che sono passati 80 anni da quando iniziò quella dittatura. Dalla Repubblica, invece, qui un fatto molto più legato alla cronaca, il titolo Migranti, minori e soli, SOS dei sindaci. In Calabria sono approdati altri 50 ragazzi senza famiglia. Questo è uno dei tanti aspetti dell'ondata di migranti, che molti, adesso ce lo dicono i dati delle ultime settimane, sono minorenni, a volte proprio bambini, che arrivano senza i genitori. A proposito, tutto sommato, di Olimpiadi, Daniele Mastrogiacomo ci racconta dal Brasile questa storia, la titola L'Amazzonia regala a Rio il tesoro degli alberi, viaggio nella foresta pluviale del Brasile dove sorge la più grande fabbrica di gomma che, sia detto per inciso, ci spiega Daniele Mastrogiacomo, rifornirà di preservativi la città olimpica. Poi forse ricorderete, la domenica precedente avevamo visto sulla stampa quella statistica che vede l'Italia leader in Europa per il consumo di integratori. E Francesco Zaffarano oggi ci racconta 5 giorni di Joy Lent, uno di questi tanti integratori. Così si vive di soli integratori. Il beverone per chi non ha tempo di pranzare si compra online senza prescrizione medica. Ma ecco che cosa succede a consumarlo tutti i giorni. E c'è il parere della dietista che dice il pranzo lo bevi ma così assumi metà dell'acqua, e del gastroenterologo che consiglia di consultare un medico. Una bella intervista a Maddalena Ghenea, che ricorderete la protagonista, una delle coprotagoniste, diciamo, del film, l'ultimo film di Sorrentino, Youth, dove interpretava Miss Universo, essendo appunto bellissima, però interpretava una Miss Universo che era anche molto intelligente. C'era una conversazione un po' piccata con un attore americano che, solo perché era Miss Universo, partiva dal presupposto che fosse anche un po' stupida, e lei gli rispondeva per le rime. E qui il titolo, Maddalena bellissima con l'anima, sta studiando cinema, sta studiando recitazione e uscirà presto il primo film di cui è veramente protagonista, cioè Colpo di fulmine. Altri approfondimenti, vi dicevo la pagina sul reportage di chi va al mare molto presto per poter trovare un posto nella spiaggia tra La Aiguella e Alassio, lo trovate a pagina 14 del Secolo XIX. Altri approfondimenti, questo è interessantissimo, un'inchiesta del Giornale sull'UNESCO. L'UNESCO è quella parte delle Nazioni Unite che definisce, appunto, dà il marchio di patrimonio dell'umanità. In Italia abbiamo tanti siti che hanno questo marchio, ma questa inchiesta ci spiega anche come questo marchio si garantisce fame e soldi, ma la selezione dei siti è un trionfo di sprechi e burocrazia. La corsa a entrare nel CRAB UNESCO, ma a pagare sono i contribuenti. L'Italia è il secondo finanziatore mondiale dell'agenzia ONU, però deve farsi carico in proprio della tutela dei siti selezionati, e c'è ci sono 5 esempi: la Val d'Orcia, la Val Camonica, il centro storico di Mantova, e come appunto siano siti decretati patrimonio dell'umanità, ma poi non si fermi lì l'impegno dell'ONU. Una intervista invece a pagina 9 di Libero a Marcello Veneziani, che era in passato è stato, a proposito di RAI, anche consigliere della RAI. Strana questo titolo, perché il titolo è In RAI me la tiravano dietro e vi stupite degli stipendi. In realtà poi nelle risposte che Veneziani dà a Luca Telese non c'è questa cosa In RAI me la tiravano dietro, anche se abbiamo capito che cosa intendeva. Spiega invece, quando si parla degli stipendi, ogni stipendio d'oro è come una pietra miliare, la memoria di un'era geologica trascorsa. In quelle buste paga ci sono ancora contratti dei Michiani, Veltroniani. La RAI incorpora le stagioni politiche e le assunzioni una nell'altra, come fossili. E quindi, gli chiede Luca Telese, che si stupisca la gente lo capisco, che lo facciano i giornalisti no. E un'ultima segnalazione, sempre da Libero, un ritratto molto sfilato di Giancarlo Perna, che in ritratti di politici è specialista, di Massimo D'Alema, definito il re dell'opposizione, che è invecchiato male, solo e arrabbiato, da 8 anni non ha incarichi degni, la sua parabola è conclusa anche se continua a ritenersi il migliore. E questo ultimo minuto lo uso per collegarmi a quello che alla novità di dell'agosto di Radio 24, l'avete forse già sentito, è il programma che alla cui conduzione si alterneranno Elisabetta Fiorito e Deborah Rosciani, si intitola Ma cos'è quest'estate, e vi do qualche anticipazione su quello che saranno gli argomenti di oggi. Abbiamo parlato tanto di dialogo tra religioni, in particolare tra religione cattolica e Islam, e la prima parte sarà appunto dedicata in realtà ai cristiani nel mondo, tra persecuzioni, aiuto ai più poveri all'estero in Italia con tanti ospiti. Poi si parlerà anche un po' di saldi, perché tutto sommato sono iniziati all'inizio di luglio e in molti negozi sono già finiti, quindi si può fare un primo bilancio. E poi, per quanto riguarda le letture estive, questo ritorno, ennesimo ritorno, della mania dei libri sui vampiri tra i giovani lettori. Ma era appunto una piccola anticipazione di quello che sentirete nelle prossime due ore. Io posso solo augurarvi ancora un buon primo d'agosto e ci sentiamo domani.